I nomi delle cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte, ciao a tutti, inizia adesso una nuova puntata della trasmissione Nomi delle cose, di cui andiamo a leggervi subito il palinsesto. Ciao, oggi parleremo di attualità femminista concentrandoci sulle elezioni USA, sulle primarie USA e concentrandoci soprattutto su Hillary Clinton e sul suo presunto femminismo e poi leggeremo la parentesi di Elisabetta e per poi andare a fare un approfondimento sull'iniziativa che c'è stata il 1° aprile a Milano alla libreria Calusca per la presentazione degli atti dell'incontro nazionale questioni di genere nella sinistra di classe. Allora iniziamo questa prima parte di attualità parlando delle elezioni, in realtà delle primarie americane che, come tutti sanno, anche grazie al bombardamento mediatico che ne fanno, sono iniziate da 2 mesi e sono quelle elezioni che porteranno a designare il candidato presidenziale rispettivamente per il Partito Repubblicano e per il Partito Democratico e per le elezioni vere e proprie presidenziali che si terranno invece l'8 novembre prossimo. I candidati di cui più si parla, che appunto si stanno contendendo la nomination, come dicono loro, sono la Clinton e Sanders per i democratici, sì, e Cruz e Trump per i repubblicani. Per quanto in questa trasmissione non mancheremo di accennare ad alcuni aspetti dei vari programmi e dei vari profili, insomma, dei vari candidati, ci concentreremo però, come si diceva, su Hillary Clinton, sul suo programma e sul ruolo che ha rivestito e riveste nella politica americana, visto che è al governo e al potere da molto tempo, infatti è l'attuale segretario di Stato in carica. E la Clinton nella sua corsa alla presidenza interessa in particolare noi femministe, visto che incarna quello che si può definire femminismo di Stato e che abbiamo più volte detto è un tipo di femminismo tra virgolette a cui andrebbe impedito di definirsi tale. Prima di analizzare gli aspetti del programma della Clinton, le sue varie dichiarazioni e anche i suoi atti di politica estera e interna che ha portato avanti in quanto segretario di Stato, vorremmo ricordare diciamo, come funziona il sistema elettorale americano, perché la cosiddetta più grande democrazia del mondo in realtà si fonda su un sistema elettorale che addirittura, diciamo, è antidemocratico secondo i principi più basilari che noi non rivendichiamo e che però dovrebbero costituire appunto un sistema democratico. E infatti adesso, accennando ad alcuni aspetti più salienti del sistema elettorale americano, si vedrà come questo è assolutamente classista, corporativista e quindi antidemocratico, tanto che non funziona neanche il principio secondo cui una testa vale un voto. Allora, innanzitutto è molto interessante notare che per votare negli USA è necessario fare una procedura, cioè iscriversi previamente alle liste elettorali, una cosa che non solo deve essere attivata molti mesi prima, varia da stato a stato, ma comunque è farraginosa, tanto che nessuno lo fa. Sappiamo che in America c'è un tasso di astensionismo molto alto e infatti hanno cominciato a per esempio suggerirti di iscriverti alle liste elettorali, per esempio quando prendi la patente di guida, oppure ogni volta che sei negli uffici burocratici, per qualche motivo tentano lì di dirti: beh, iscriviti alle liste elettorali. Il diritto al voto potrebbe essere un tuo diritto fondamentale, se vuoi prenditelo, se vuoi, eh. Esatto. Se vuoi. La cosa interessante anche che però, che quando tu ti iscrivi a queste liste elettorali devi anche dichiarare il partito politico per cui di appartenenza, diciamo, no? E questo lo fanno perché così agevolano la partecipazione alle primarie, che sono appunto le elezioni che stanno avvenendo adesso e che portano all'interno di ogni partito alla designazione, a designare il candidato per le presidenziali. La cosa interessante, ancora più interessante però, è che in realtà negli Stati Uniti è diffusissima la pratica dell'esclusione dal voto come sanzione accessoria nel caso tu incorra in condanne penali, cioè quella che noi chiamiamo una sanzione interdittiva, che può essere dai pubblici uffici, appunto, invece anche per il diritto di voto, che però lì funziona in maniera automatica a seconda della durata della detenzione oppure dell'entità della pena che ti viene comminata, e chiaramente stiamo parlando di durate e, diciamo, intensità di pena anche scarsissime. Il risultato poi è che, se consideriamo, che un dato a tutti ormai noto, che la maggior parte della popolazione carceraria americana è composta da neri, ispanici, sfruttati di tutti i tipi, chiaramente l'esclusione dal voto come sanzione accessoria si traduce in un'esclusione dal voto delle classi subalterne più sfruttate della società, sì, americana. Le classi più basse, più povere. E poi invece adesso ci sono appunto queste, si stanno svolgendo queste primarie, che sono, l'abbiamo già detto, queste elezioni che portano a designare il candidato per il Partito Democratico e per il Partito Repubblicano che si contenderà la corsa agli Stati Uniti. In realtà però in queste primarie non vengono direttamente eletti i candidati del partito da parte dei votanti, ma in ogni stato coloro che esprimono una preferenza, diciamo, esprimono una preferenza per dei delegati che poi andranno a una convention rispettivamente per democratici e repubblicani, che si terrà a luglio, ed è in quella sede che verrà ufficialmente designato il candidato di partito. Quindi è un doppio salto mortale, c'è, cioè, un'elezione ancora più indiretta di quello che si potrebbe pensare. Dopodiché arriviamo al dato più interessante, che sono appunto le vere e proprie elezioni presidenziali che si terranno l'8 novembre. Anche qui il presidente del presidente americano, che è appunto comandante in capo dell'esecutivo, comandante in capo delle forze dell'ordine, insomma, sì, delle forze armate, eccetera, non è eletto dai cittadini, ma è eletto dai cosiddetti grandi elettori, cioè dai deputati e dai senatori che vengono individuati su base statale in proporzione alla consistenza demografica di ogni stato. Cioè, ad esempio, la California, che conta una popolazione di 35 milioni di abitanti, esprimerà 55 senatori e deputati che andranno a formare questi collegi dei grandi elettori, mentre ad esempio il Vermont, che ha una popolazione molto più bassa, cioè soltanto di 600.000 persone, ne esprimerà soltanto 3. Dopodiché sono questi delegati che votano per il presidente, ma anche questo voto si conta su base statale, cioè relativa a ogni singolo stato, noi diremmo regionale, insomma. E ciò significa che chi vince in uno stato prende tutti i voti espressi da quello stato, quindi diciamo, prendere il maggior numero di voti da parte dei grandi elettori non assicura la vittoria, perché a quel punto, diciamo, chi vince in uno stato prende tutti i voti. Allora, anche da queste semplici notazioni che sono soltanto così molto accennate, non ci siamo impelagate nelle varie differenze interne agli stati, nei funzionamenti eccetera, perché è lampante fin da subito, soprattutto appunto con il sistema delle liste elettorali, con l'esclusione del diritto di voto nel caso di una condanna penale, con il metodo delle primarie, dei grandi elettori eccetera. Chiaramente questo sistema americano non è assolutamente democratico, non che lo rivendicheremmo in quanto tale tout court, ma appunto è la radice classista e corporativista soprattutto anche del sistema elettorale emerge con molta evidenza, ed è questo il quadro entro cui questa corsa tra i vari candidati prende piede. E infatti, per quanto adesso cercheremo appunto di affrontare la figura di Hillary eccetera, quello che ci interessa discutere non è tanto appunto la competizione tra i vari candidati, fare infatti un bilancio tra chi è migliore e chi è peggiore, quanto invece analizzare proprio la figura di Hillary. Hillary Clinton, sì. Esatto, e tanto è vero che potremmo chiudere questo breve accenno con le parole rilasciate da una militante del Black Lives Matter, il movimento che è nato 2 anni e mezzo fa, anche sulla scia di tutti gli assassini che sono stati compiuti da parte delle forze dell'ordine contro la popolazione nera americana in molti stati di tutto quel grande paese, e che appunto il mese scorso, rilasciando un'intervista a un'emittente televisiva, ha dichiarato che il movimento Black Lives Matter non appoggia e non sostiene nessun candidato. Cioè, il concetto di base è quello di, insomma, che dice: non investite le vostre energie, le vostre aspettative in un sistema elettorale che non funziona, e non funziona tantomeno per la popolazione nera in America, e noi potremmo aggiungere non funziona neanche per noi, cioè non ha mai funzionato per nessuno, appunto, indipendentemente che vinca un democratico o un repubblicano. E continua questa militante dicendo: i veri cambiamenti, quelli strutturali, provengono infatti dal coinvolgimento, dalla partecipazione attiva, dal protagonismo delle persone on a street level, cioè dal basso, insomma. La libertà dalla schiavitù si può conquistare solo attraverso l'auto-organizzazione. L'astensione quindi non è un invito a restare a casa, al contrario, è un invito a fare molto di più. Come diciamo sempre, un invito a non delegare, a prendere in carico la propria liberazione. Esatto, a non farsi rappresentare dal politico di turno. allora torniamo in voce in diretta e arriviamo finalmente a questo mostro a tre teste che è la candidata donna per il Partito Democratico a queste elezioni presidenziali, cioè la notissima e arcinota Hillary Clinton. Per inquadrare questo personaggio e poi scendere, diciamo, sugli aspetti che riguardano più da vicino il suo approccio alla libertà delle donne, alle politiche più direttamente, diciamo, interessanti il corpo femminile o il femminismo in generale, è utile dare un quadro di insieme dell'azione politica della Clinton, perché appunto è una donna che partecipa al potere da molto molto tempo ed è attualmente in carica come segretario di Stato. Allora abbiamo individuato una serie di punti che sono, diciamo, molto utili ad inquadrare il personaggio. Allora, innanzitutto, senza andare troppo indietro nel tempo, abbiamo molto materiale negli ultimi 10 anni, 10-15 anni. Sì, la ribalta della cronaca, anche perché segretario di Stato americano, quindi. E gli americani non sono stati molto fermi negli ultimi 4-5 anni, insomma, no? Hanno trovato una risposta. C'hanno tante cose da fare in giro per il mondo. Un sacco. Molte cose da fare. Risico è niente a confronto. E infatti la Clinton è stata, cioè insieme all'America chiaramente, ma in quanto segretario di Stato, coinvolta in tutte le nuove avventure neocoloniali, no, degli ultimi anni, ed è stata particolarmente aggressiva sia nei confronti della Libia che nei confronti della Siria, tanto che in varie dichiarazioni pubbliche, da ultima mi sembra su un giornale che si chiama The Atlantic, ha ammesso il suo coinvolgimento diretto attivo nella creazione di milizie anti-Assad, che però, come dice lei, le sono sfuggite di mano, no? Conducendo al panorama che adesso conosciamo, che vede l'avanzata di una serie di milizie, cioè anche permeabili tra di loro, il rapporto tra di loro che grande disordine che vanno appunto da tutte queste formazioni terroristiche, ISIS in testa. E per non parlare del fatto che, insomma, la Clinton non nasconde di certo, e anzi porta con un certo orgoglio, il suo legame, il suo appoggio all'entità sionista e quindi a tutta la politica repressiva e imperialista di cui si incarica Israele in Medio Oriente. In più, e questo è per quanto riguarda, diciamo, la linea di politica estera, possiamo dire che la Clinton, come all'epoca la Condoleezza Rice, no, che oltre ad essere donna era anche nera, cioè, proprio. E c'aveva un nome che le era stato dato, perché Condoleezza significa con dolcezza. Con dolcezza. Omen nomen proprio. Esatto. Con dolcezza, sì. Alla pari di Condoleezza Rice, diciamo che proprio è una guerrafondaia in pieno stile. In più, il suo coinvolgimento con gli affari delle grandi multinazionali e delle banche, i loro legami proprio molto molto stretti, sono noti a tutti, tanto che addirittura in un articolo dell'Annunziata, che non brilla, diciamo, per la sua radicalità. Decisamente no. Cioè, noi abbiamo avuto tante volte modo commentare dei suoi articoli proprio osceni, anche e soprattutto dal punto di vista femminista. Ci dà però alcuni dati interessanti. Appunto, dice: Bill e Hillary dal 2001 alla scorsa primavera, quando è cominciata la corsa alle primarie, hanno guadagnato 153 milioni di dollari solo in discorsi pubblici, no? Che quindi vengono commissionati da qualcuno. E ma chi è che ha i soldi per pagare 153 milioni di dollari? Non ce li svela tutti questi attori, però ci dice che 7,7 milioni di dollari sono stati ricavati da 39 incontri organizzati da grandi banche, in testa su tutti Goldman Sachs. E quindi il cerchio si chiude, perché come dice un manager proprio di Goldman Sachs su una rivista, dice: certo, nessuno viene a parlare male di chi ti ha pagato, no? Contando. Cioè, questa pratica di pagare i discorsi è lecita di per sé, no? Chiaramente. Ovvio, però se poi ti candidi e i soldi te li ha dati Tizio, Caio e poi Sempronio, quando arrivi al governo, visto che Tizio, Caio e Sempronio, non è che dici, sai, faccio il fruttivendolo, non è che c'ho tanti interessi da difendere qui e lì, le leggi di qui e lì, no. Sono la Goldman Sachs, sono la JP Morgan, capito? Poi io batto cassa e tu mi devi esatto, dar retta, anche perché cassa. Non è che ti do gli spiccioli. Questo è il problema della politica americana di fondo, che è una politica basata sugli interessi delle lobby, e questo è lobbismo. nient'altro. È una cosa che però si sta estendendo, come infatti accenneremo più tardi, un po' a tutto il mondo, no? Cioè l'influenza delle multinazionali ormai dilaga. Vediamo anche qui con lo scandalo dei petroli, adesso in Basilicata. No, proprio incidono sulla nostra vita direttamente. Tant'è vero che questi legami della Clinton con il grosso capitale finanziario spiegano anche tutto il mistero che è aleggiato intorno alla prima, cioè alla prima, all'aggressione alla Libia del 2011. In un articolo che abbiamo trovato su Sinistra in Rete, che si chiama L'agenda libica svelata, infatti, si prende il pretesto dei messaggi di posta elettronica che tempo fa, mesi fa, sono stati, sfuggiti anche là di mano dal server come di posta elettronica. Come tutte le zone dove sono andati loro. Cioè, sai che ci sono andati gli americani, tempo due mesi, un casino. Disordini, guerre civili, al solito, insomma. Però è interessante, diciamo, le mail che sono trapelate dall'account di Hillary Clinton grazie a un'indagine che aveva a causa, o grazie, non so, a un'indagine che aveva portato avanti l'FBI, hanno dato del materiale, diciamo, a chi si interrogava sui motivi più profondi dell'aggressione alla Libia, perché il grande cancan, la grande montatura e propaganda rispetto alla liberazione delle donne piuttosto che dei bambini, insomma tutta quella retorica del diritto umanitarismo ha retto fino a un certo punto. E infatti dice la Clinton, diciamo, è stata proprio in prima linea, tant'è vero che nell'ottobre del 2011 veniva a una video intervista rilasciata dalla CBS in occasione della sua visita in Libia, ha rilasciato questa intervista in cui definiva traguardo vittorioso la caduta di Gheddafi e proprio testualmente diceva: siamo arrivati, abbiamo visto, è morto, e la rivendicava con grande enfasi. Fatto sta che rispetto ai motivi di questa aggressione, da questi 3.000 messaggi di posta elettronica viene fuori che quasi un terzo erano di questo stretto confidente della Clinton, Sidney Blumenthal, scusate se non è corretto il nome. Ad esempio, in una di queste mail si legge: il governo di Gheddafi detiene 143 tonnellate di oro e una quantità equivalente in argento. Questo oro è stato accumulato prima della ribellione in corso e doveva essere utilizzato per istituire una valuta panafricana con riferimento al denaro aureo libico. Questo piano era stato progettato per fornire ai paesi africani francofoni un'alternativa al franco. In tutto questo, infatti, c'era il problema per gli americani, no, di vedere la Francia così interventista e quindi di buttarsi in mezzo, perché il progetto della Francia era proprio questo, esatto, diciamo, di no? Accaparrarsi quei territori. Quelle risorse finanziarie, esatto, cioè quelle riserve auree. E quindi si monta questa grande, dal punto di vista invece propagandistico, si avvia la grande macchina, appunto, della retorica dei diritti umani per coprire questa aggressione armata e brutale alla Libia. E infatti viene suggerito, viene ricordato in questo articolo che viene usata proprio la strumentalizzazione della libertà e della sicurezza delle donne per legittimare l'intervento, tant'è che si era parlato di politica dello stupro che Gheddafi aveva messo in piedi, fornendo Viagra alle sue truppe militari e mandandoli a stuprare in giro delle donne. Chiaramente nell'articolo si dice queste scuse, appunto, se si vanno a vedere i dati finanziari, quanto ci hanno guadagnato il capitale finanziario francese, il capitale finanziario americano, non regge. Tant'è vero che, se proprio vogliamo parlare di protezione dei diritti delle persone, dei diritti umani, come spiegare il bombardamento che è stato fatto di questo grande fiume artificiale, che era questo progetto che era stato avviato e che prevedeva, appunto, un sistema di irrigazione civile che andava a portare acqua fino al 70% della popolazione libica? Quindi dice: questo, diciamo, intervento, queste bombe difficilmente si presentano con un intervento umanitario, no? E quindi, tra l'altro, queste mail di Hillary Clinton fanno luce anche su un altro enigma che era stato da più parti sollevato, e cioè: com'è possibile che a poche settimane dall'inizio di una rivolta armata anche i ribelli, insomma, anti Gheddafi, hanno creato la propria banca centrale dopo 3 settimane dall'inizio della rivolta? Un progetto, diciamo, devi avere una forte organizzazione e finanziamento dietro, no? Esatto. Piccola parentesi su questa storia delle mail dell'FBI: questo è una questione che potrebbe dare dei, dei problemi, probabilmente no perché la Clinton è molto potente, però potrebbe dare dei problemi proprio per la candidatura della Clinton, perché Obama è a fine mandato e lei sostanzialmente utilizzava per le mail istituzionali, per le comunicazioni istituzionali, un account che non era quello che doveva utilizzare in buona sostanza, e l'FBI si è non poco indispettita per ovvi motivi, insomma, che su queste cose sono un attimino paranoici, e quindi potrebbero esserci dei problemi, ma considerando la posizione della Clinton all'interno della politica americana e considerando quello che abbiamo detto fino adesso del funzionamento del sistema, esatto, americano, probabilmente, direi che, probabilmente non ci saranno ripercussioni se non dietro le quinte, ma non a questo livello, no, anche se tecnicamente, se proprio dovessero essere ligi alla regola, teoricamente lei potrebbe veder saltare la propria candidatura, però parliamo della Clinton, no, e non, della mia vicina di casa, capito? Quindi c'è un peso diverso. In una botte di ferro, cioè. E come ultimo, diciamo, dal punto di vista della politica internazionale, no? Che è quella che anche un po' interessa anche noi, visto che la linea di politica estera che adotta l'America ha forti ripercussioni su di noi, è anche il caso di sottolineare che la Clinton è stata una grande sostenitrice ed è tuttora una grande sostenitrice di tutti gli accordi di libero scambio che adesso si stanno moltiplicando, no? Quindi è stata sostenitrice all'epoca della redazione e ratificazione del NAFTA, questo accordo di libero scambio che è stato firmato ed è entrato in vigore nel 94 tra Canada, Stati Uniti e Messico, ed è attualmente sostenitrice sia dei TPP, cioè accordi di libero scambio che vengono ratificati tra Stati Uniti e paesi del Pacifico, e dei TTIP, che sono quelli che invece sono in discussione tra Unione Europea e Stati Uniti. Questi chiaramente trattati di libero scambio sembrano essere molto lontani dai nostri problemi concreti, in realtà ne costituiscono anzi proprio l'ambiente in cui i nostri problemi concreti vivono e una delle cause del loro peggioramento. Perché infatti sono trattati che si fondano sul concetto di eliminare le barriere tariffarie e non tariffarie al libero scambio. Allora, dentro a queste barriere non tariffarie, cioè diciamo formula che utilizzano così anche un po' per mistificare, perché uno non sa mai che cosa sono queste barriere non tariffarie, ecco, tra queste barriere non tariffarie ci sono chiaramente i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, gli standard di sicurezza sul posto di lavoro, le misure a protezione dell'ambiente, le misure a protezione della sicurezza alimentare, il fatto poi che poi si riverbera sulle economie locali e sui piccoli produttori, che togliere le tariffe doganali, dazi eccetera è conveniente per chi ha grandi quantità di merce da trasportare e ammortizza i costi. Questo non viene mai sottolineato, perché uno non vede le connessioni ci sono anche più immediate di quanto uno possa pensare, ma queste cose ammazzano sì, anche la piccola e media impresa, che è quella su cui si regge poi l'economia nostra, la nostra economia, quella delle persone normali. Sì, comunque hanno contribuito fortemente, hanno attaccato e hanno contribuito in maniera decisiva ad abbassare comunque i salari per tutti i lavoratori, perché chiaramente tu crei un'area più grande in cui tutte le legislazioni a protezione dei lavoratori, esatto, vengono identificate appunto come degli ostacoli al libero commercio e quindi vengono ridotte e armonizzate ovviamente sui parametri americani, no? O comunque su dei parametri ancora peggiorativi che possano mettere d'accordo i capitali dei vari stati, no? Cioè i capitalisti e i padroni dei vari stati. Quindi quella è la prima, diciamo, sull'organizzazione e sul costo del lavoro è la prima cosa su cui si mettono tutti d'accordo. Certo, anche perché poi per fare le vertenze o per tutti trovi di fronte colossi che, esatto, hanno dei mezzi enormi, e poi mettersi in d'accordo fra 4-5 attori che devono determinare le eventuali politiche anche del lavoro è molto più facile rispetto ad una realtà più frammentaria, più che poi fa più riferimento anche ai rapporti umani più immediati, perché poi quando non ci sono questo tipo di dinamiche, che sono quelle che piano piano prenderanno piede anche da noi, e che già hanno preso piede, perché è inutile negarselo. Il rapporto di lavoro c'ha anche delle vie di fuga per il lavoratore, delle possibilità che sono diverse. Se lavori per una multinazionale, a quello devi stare, quello certo, devi fare. Certo, e adesso questi trattati di libero scambio, tra l'altro, segnano un passaggio ulteriore, e cioè il fatto che gli stessi trattati istituiscono dei tribunali che quindi non hanno radicamento nella sovranità statale, no? Non hanno niente a che vedere con la magistratura, o appunto sono dei panel composti da esperti che si occupano quindi di risolvere le controversie tra stati firmatari di questi trattati, che sorgono sull'interpretazione oppure su dei trattati stessi oppure su alcune misure restrittive al commercio che vengono messe dagli stati. Questo che significa, però, che uno Stato può essere citato in giudizio direttamente da una multinazionale, che può quindi rivendicare che lo Stato o faccia entrare quelle merci oppure adotti quelle misure, appunto, di relazioni industriali, ad esempio, che lo Stato non sta adottando, e in caso questo si rifiuti di adeguarsi può chiedergli risarcimenti ultramilionari che, come sappiamo, possono andare anche oltre il PIL interno di un paese, perché ormai una multinazionale ha dei prodotti interni lordi che superano gran parte di quello dei singoli paesi. E in tutto questo, appunto, la Hillary si pone in posizione centrale, nel senso li rivendica, ogni tanto cerca, diciamo, di alle accuse che le vengono fatte, per esempio da Sanders, no, proprio su questo punto, lei dice che vorrebbe al massimo correggere il tiro per l'economia interna americana, ma chiaramente non è che mette in discussione. E poi sono dichiarazioni elettorali, insomma, quello che conta è il voto che lei ha dato negli ultimi anni. Scordandosi poi, mi piace che faccia questa distinzione tra politica interna e politica estera, scordandosi che se cambi le cose in politica interna dando una virata netta alle tue posizioni politiche e al tuo programma politico, gioco forza dai una virata netta anche in politica estera, perché o investi dentro o investi fuori. Se tu spendi tutto per gli aerei e fare le guerre, non puoi spendere per l'assistenza sanitaria. Cioè, questo veramente è un prendere in giro. Sì, come tutte le competizioni elettorali. Per carità, poi sappiamo che ti promettono 2000 e se tutto va bene ti danno uno togliendoti 20. Quindi è sempre così. Lì però negli Stati Uniti tutto prende una piega diversa e ha una cassa di risonanza, gioco forza maggiore, perché le decisioni degli Stati Uniti si riverberano anzi i tempi poi rispetto a prima si sono accorciati, si riverberano subito dopo da noi in Europa. La macelleria sociale che si sta attuando adesso, anche il regresso politico, sociale, culturale, cioè in Polonia attualmente, e la Polonia sta in Europa, questo lo dico al volo, stanno discutendo se rendere l'aborto totalmente illegale, e loro in Europa ci possono stare. Infatti sull'aborto l'Ungheria poi ci poteva già stare, vabbè, ultradestra, la libertà di stampa, la libertà di parola. Adesso anche la Polonia, che tra l'altro respinge i migranti, perché siccome sono cattolici, Gesù era straniero, tu che fai? I migranti li butti via. E poi sei anche contro l'aborto, perché difendi la vita. Ma infatti adesso parleremo anche di aborto e passeremo, diciamo, a tutti gli aspetti non solo della campagna elettorale ma anche del programma politico della Clinton, che riguardano più precipuamente la condizione della donna. In ogni caso, comunque, da queste prime notazioni in merito alla politica estera della Clinton, come noi sempre diciamo, se il femminismo deve essere anticapitalista e deve percorrere strade di liberazione e di antagonismo, ma soprattutto, appunto, deve essere anticapitalista, non può oggi esimersi dal prendere parola anche rispetto alle aggressioni imperialiste e quindi dall'essere antiimperialista. Di conseguenza la Clinton mi sembra che da questo punto di vista possa assolutamente essere esclusa dal novero delle femministe. Del tutto, anche perché anche se questo all'atere, attualmente lei è questa del presunto femminismo della Clinton è oggetto di dibattito negli Stati Uniti da parecchio tempo in realtà, e anche oltreoceano, insomma, la discussione è molto viva, anche perché, voglio dire, gli Stati Uniti non sono solo il paese della Clinton, ma sono anche il paese di Angela Davis, delle Black Panthers, quindi insomma ci sono molte anime, non tutte con lo stesso potere di espressione, questo sicuramente, e con gli stessi strumenti e gli stessi mezzi, però c'è un dibattito vivo e già negli stessi Stati Uniti si stanno levando questa etichetta di femminista che la Clinton, perché stava col pugno alzato alle manifestazioni degli anni 70, si è autoattaccata. Lei è sostenuta dalla Albright, Madeleine Albright, che si autodefinisce pure lei femminista, sulla base di cosa non si è capito, e che è stata segretario di Stato del marito, la prima segretaria di Stato donna, dunque in automatico è femminista, capito? Magari va facendo le guerre a destra e a sinistra, fa in modo che nei territori più disagiati le donne campino malissimo, ma questo non, poco conta, no? L'importante è che sei la prima donna a fare qualche, conta solo questo. Allora, sull'emancipazionismo di Stato torniamo dopo una brevissima pausa musicale. Ritorniamo in voce, sempre in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, e questa è ancora la trasmissione I Nomi delle Cose. Stavamo parlando della figura di Hillary Clinton e degli appoggi di cui gode nel mondo da parte di una serie di donne di potere che si autodefiniscono femministe, ma che volentieri noi non definiremo tali. Sì, perché insomma abbiamo menzionato Madeleine Albright, che lo ripetiamo, è stata segretario di Stato con il marito Bill Clinton, quindi poi femminista, insomma la parola femminista non so chi te l'ha data, tanto ormai è squalificata, qualcun altro ti direbbe a questo punto, perché confondere in questo modo femminismo ed emancipazionismo è grave, perché passa un'idea sbagliata che infatti è stata perpetrata nel tempo confondendo le acque, fa diventare ancora più difficile capire la realtà e leggere con un minimo di lucidità le cose. Non c'è solo la Albright, c'è anche Gloria Steinem, che pur avendo definito Sanders donna onoraria in tempi non sospetti, adesso ha dato il suo appoggio alla Clinton. La Steinem è una femminista di tutt'altra levatura rispetto alla Albright, però è anche vero che ha preso negli ultimi tempi, diciamo, ha virato verso un femminismo molto più politically correct, quindi ha smesso di essere femminista decisamente. Ma poi infatti su questo femminismo ed emancipazionismo è proprio la Clinton che in un'intervista rilasciata a questa Lena Dunham, che adesso è una giovane sceneggiatrice che ha tirato su uno show televisivo che va molto di moda negli Stati Uniti e che si chiama Girls, su quattro ragazze che diciamo non hanno lo stato sociale né il reddito per vivere a Manhattan e quindi sono confinate a Brooklyn. Comunque lei gli ha rilasciato questa intervista in cui la Clinton cerca anche di fare la simpatica e di sciogliere un po', diciamo, le sue rigidità, e quando questa intervistatrice le chiede ma tu ti consideri una femminista, la Clinton dice testualmente che certo che si considera una femminista, perché quello che le dispiace molto è che soprattutto le giovani se ne escano con frasi del tipo io rivendico la parità di diritti tra uomo e donna però non sono femminista. E allora dice la Clinton si lascia andare, no? Il femminismo è per definizione parità di diritti economici, sociali, politici, culturali tra uomini e donne. Il femminismo è proprio questo, quindi chiunque voglia la parità di diritti tra uomini e donne allora è una femminista. È appunto l'apologia dell'emancipazionismo, ma è anche una grande mistificazione. Sì, è una mistificazione, perché prima bisognerebbe mettersi d'accordo su cosa significa diritto, su qual è il significato di diritto, su cosa è diritto oppure no. È un diritto avere la possibilità di andare a morire ammazzati in un altro paese per gli interessi fondamentalmente economici e finanziari di quattro multinazionali, perché poi di questo si tratta? Certo, perché lei si rivendica le donne nell'esercito. Ovvio. Allora, questo non è un diritto, questo è un modo di far sembrare un diritto qualcosa che non lo è. Semplicemente un ulteriore asservimento e sfruttamento della donna. E ha un senso parlare di parità dei diritti quando tu, nella veste di segretario di Stato, che come sappiamo all'adere è quasi più potente il segretario di Stato degli Stati Uniti che il presidente degli Stati Uniti stesso, tu da segretario di Stato hai portato avanti e promosso guerre in ogni dove, negli stati del Nord Africa, negli stati asiatici, fregandotene fondamentalmente della realtà delle donne, perché poi sono, cioè, lì ci sono le donne come te, teoricamente, per il genere. Sono le donne come te che stanno male. Quindi uno si chiede, tu, la parità dei diritti, per chi la vuoi? Di chi stai parlando? Di quelli come te. Certo. Allora, il femminismo non può essere solo femminismo di genere, se non è prima femminismo delle idee. Perché è facile fare le femministe quando c'hai le tate, i soldi, sei plurilaureata. Questo è il femminismo dell'elite. Ma il vero femminismo non è dell'elite, il vero femminismo c'è tutto un movimento giovanile, molti dei quali appoggiano Sanders, però possiamo farla come notazione a margine questa, però ci sono, tutto, diciamo, tra i giovani e soprattutto tra le giovani circola invece l'idea, appunto, che votare per la Clinton soltanto in quanto donna non è assolutamente un voto che esprime, diciamo, un pensiero femminista, perché la Clinton appunto viene paragonata da queste giovani femministe a tutto quel femminismo che loro chiamano establishment feminism, che noi stiamo chiamando femminismo di Stato, in cui appunto ci sta per esempio una un'amministratrice delegata di Facebook che scrive pamphlet su come appunto si può fare successo essendo madri laureate, contate e inserirsi bene nella società. Certo, perché loro ti vendono l'idea, questa, e lo stanno facendo, lo fanno anche qui, e questa è una cosa odiosa, ti vendono l'idea, questa immagine patinata che è un po' anche quella della Casa Internazionale delle Donne, questa immagine della donna patinata nel co-working che può fare tutto e allora può coniugare tutto con bambini, abbiamo tutte quante le sedi per le donne perché noi siamo avanti, siamo emancipate, abbiamo tutto. Grazie, coletate a 800 euro al mese, dove li trovi 800 euro al mese e paga la tata e fa la donna moderna? Sono le femministe da donna moderna, da io donna, sì, donna moderna, grazie Mary Claire. È un modello di donna che abbiamo più volte detto, in realtà non fa altro che incrementare lo sfruttamento, nel senso che se prima ti dicevano fai soltanto la madre di famiglia, la buona madre di famiglia, sorella eccetera, adesso fai anche la sposa del capitale, quindi ti fai sfruttare sul posto di lavoro, esatto, oppure sfrutti a tua volta se fai carriera, no? E contemporaneamente continui anche a rivestire il ruolo della donna del focolare, esatto, no? Ed introduce anche divisione all'interno del genere stesso, perché questo produce differenze all'interno della stessa categoria femminile. Certo. E questo ovviamente infatti fa male al femminismo, e lo sappiamo e lo vediamo tutti i giorni. Certo, perché il femminismo è chiaramente attraversato dai conflitti di classe, quindi se essendo attraversato da conflitti di classe, se questa oppressione di genere è in qualche maniera interclassista, anche internazionale, attraversa confini, culture eccetera, poi la lotta femminista, il pensiero femminista non è così, non è interclassista, no? Lo abbiamo sempre detto, e infatti ci sarebbe avremmo dovuto fare adesso un approfondimento sull'iniziativa che abbiamo fatto alla Calusca il primo aprile scorso, che era appunto la presentazione di questi atti di un convegno che abbiamo fatto un anno fa, questioni di genere nella sinistra di classe, che però non avremo modo di fare, credo, ci siamo fatte un po' prendere la mano su queste elezioni, avevamo un sacco di cose da dire, e quindi forse diciamo altre due cose, perché per esempio c'è il punto dell'aborto, che le posizioni di Hillary sull'aborto sono molto importanti da tirare fuori, e poi leggiamo la parentesi e chiudiamo. Rimandiamo alla settimana prossima magari questo approfondimento, sì, dell'iniziativa. Vi lasciamo un attimo con uno stacco musicale e poi ci ritorniamo in voce per la chiusura. E per finire sulla figura di Hillary Clinton, appunto come femministe reputiamo molto importante dare conto di alcune sue posizioni in merito alla violenza di genere, la violenza contro le donne, e in merito all'aborto. Rispetto al primo tema, la violenza contro le donne, la Clinton ha avuto più volte occasione di ribadire in varie interviste che, essendo un problema reale quello della violenza contro le donne, un problema che prende, diciamo, che si dispiega e che vive in tutti gli ambiti della vita, dalle istituzioni universitarie all'esercito, appunto, di cui lei è una grande sostenitrice, insomma in tutti gli ambiti della vita. Questo problema reale come si affronta? Si affronta fondamentalmente attraverso la delega allo Stato, cioè lei dice ogni volta che le donne che diritto hanno in merito alla violenza, per difendersi dalla violenza che viene esercitata su di loro? hanno il diritto di chiedere protezione alle istituzioni, allo Stato oppure alle istituzioni di prossimità, ad esempio appunto le università nel caso di violenze che avvengano all'interno dei campus, e hanno anche il diritto ad essere credute quando denunciano una violenza, quindi hanno il diritto di passare attraverso i tribunali e attraverso le istituzioni, che invece, come sappiamo, rappresentano spesso invece un'ulteriore umiliazione per la donna, che dopo aver subito quella violenza deve subire anche la violenza di Stato. Invece lei ci dice che dobbiamo delegare a queste istituzioni la nostra protezione e la presa in carico della nostra liberazione. Invece sul tema dell'aborto, ugualmente grave, quando le è stato chiesto se una femminista, cioè se possa dirsi femminista una donna contro l'aborto, lei ha detto assolutamente sì, innanzitutto perché lei rispetta le idee di tutti e le opinioni di tutti, e in secondo luogo perché credo che essere contro l'aborto non significhi per forza essere antifemminista, perché il femminismo può abbracciare anche le idee a favore della vita. Allora qua siamo proprio al culmine della mistificazione, cioè lei prende tutte le varie argomentazioni dei movimenti per la vita, dei movimenti antiabortisti, no? Che appunto con questa retorica sulla vita, ci riempiono e ci sfracassano, da vario tempo. E qua addirittura dice il movimento può essere anche a favore della vita, ma perché a favore di che cos'è? Cioè che è un movimento mortifero, cioè rivendicare la libera scelta sul proprio corpo di una donna, allora vuol dire che io se faccio una scelta nichilista oppure faccio una scelta per la vita, dipende di chi. No, ma rientri in un quadro manipolatorio di certe categorie argomentative, è evidente. Vengono utilizzate determinate argomentazioni manipolandole, quindi lei propone un po' il discorso alla volemo se bene tutte quante, rispettiamoci tutte quante, quasi a voler trovare per forza. Io personalmente dietro ci vedo sempre il meccanismo della ricerca del consenso elettorale, cioè è una ricerca del consenso. Sì, ma lei ha molto a che spartire con i movimenti antiabortisti, perché anche loro predicano il valore della vita perché, fino a quando sta nell'utero, poi quando esce da questo utero. Perché storicamente la destra, insomma, i poteri finanziari, i poteri forti, basti pensare a Reagan, hanno cercato sempre consenso e si sono alleati con la parte più perbenista, religiosa, sono andati a pescare consenso lì, in quel bacino elettorale, quindi c'è un'unione ormai storica, anche se poi nel tempo ci sono state anche delle discrepanze, perché poi le contraddizioni emergono, perché non puoi essere più di tanto cattolico o religioso pensando al comunitarismo e poi sostenere determinate politiche, sono due cose che cozzano e prima o poi qualche contraddizione emerge, però storicamente loro hanno preso sempre, sono andati a pescare lì l'America all'American Beauty, anche un po', no? C'è questa figura, questa immagine, e quindi c'è sempre, almeno io mi sembra proprio che sia inquadrato in questo, sempre questa ricerca del voto, sì, del consenso, del perché tanto quello lei fa, insomma. Quindi adesso, insomma, dopo tutta questa breve disamina del personaggio della Clinton, su cui si potrebbe continuare a discutere per ore perché ne ha fatte proprio di tutti i colori e continua a farne di tutti i colori, e purtroppo mi sa che ce la ritroveremo anche per lungo tempo come controparte. Anche se qualche scongiuro lo facciamo sempre. Sì, non ci in pronostici, però sembra così. Insomma, da femminista, quello che viene da dire alla Clinton, insomma, che è più donna onoraria Sanders della Clinton, sicuramente. No, questo neanche noi non ci no, spingiamo. Beh, ma tra il male minore, non diciamo chi è meglio, ma chi è meno peggio. Vabbè, comunque appunto alla Clinton si potrebbe dire che donne non si nasce ma si diventa. Quindi se lei vuole sentirsi una femminista, è proprio sulla strada sbagliata, e non credo che avrà occasione di tornare indietro o di invertire la rotta nella sua vita. Ormai, va. it away. You've given it away. It doesn't matter if you want it back. You've given it away. You've given it away. It doesn't matter. Noi abbiamo quasi finito il nostro tempo e forse ruberemo 2 minuti alla trasmissione dopo ad Elettro dover leggere la parentesi di Elisabetta, che oggi non è con noi e quindi non vogliamo farle il torto di non leggerla. E intanto vi salutiamo e vi ricordiamo gli indirizzi per sottoscrivere a questa radio libera, che ha bisogno di tutti i finanziamenti, i vostri finanziamenti. E per sottoscrivere potete andare sul sito www.radioondarossa.info e trovare lì le varie modalità di finanziamento, oppure potete sottoscrivere tramite il conto corrente postale numero 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00185, Roma. E quindi rimandando al prossimo mercoledì, vi lasciamo con la parentesi di Elisabetta. La parentesi di Elisabetta. Controllo cosciente. Il patriarcato intimidisce, esige, vieta, minaccia, coltiva la rassegnazione, offusca la coscienza e i desideri delle donne. La lotta oggi poggia sulla capacità e possibilità di rigettare il controllo che il patriarcato esercita sui codici, sui canali di comunicazione, sulle modalità di decodificazione e interpretazione della storia. La sfera globale della lettura della storia è necessaria per l'esistenza del femminismo. La donna merce è anche una forma della coscienza, anzi, la sua forma inconscia per eccellenza, la sua forma automatica. Programmare la coscienza della donna merce è un lavoro fondamentale della formazione semiotico-ideologica borghese. È il suo strumento principe. Il racconto, il ricordo, la storia e le gambe con cui cammina sono le socialdemocratiche. La coscienza del patriarcato opera per il loro tramite e i loro racconti, e la loro storia hanno un carattere di feticcio. In essa si riflette l'apparenza della realtà, il carattere del mondo patriarcale. Dominio reale del patriarcato nella metropoli imperialista, nella stagione neoliberista, vuol dire questo: assoggettamento della coscienza individuale nelle donne ai programmi di comportamento della borghesia per ciascun rapporto sociale. Viviamo in una comunità illusoria che produce una coscienza illusoria di sé, una catena che si può spezzare solo ponendo le proprie pratiche sociali in rapporto antagonistico assoluto con l'intera società capitalista patriarcale. Da qui la necessità di smascherare la lettura socialdemocratica della nostra storia, che opera censura e rimozione sullo spirito e la pratica femminista. Per questo si segregano, si omettono, si manipolano le motivazioni della trasgressione femminista dei codici di comportamento patriarcali generate dai rapporti sociali antagonistici propri del femminismo, tentando attraverso il censurato ed il rimosso la trasposizione per via semiotica dentro la donna. Si vuole in definitiva che ogni donna assimili rappresentazioni e concetti elaborati dal patriarcato e si spaccia questa per coscienza spontanea e propria. Ma la manipolazione borghese delle singole individualità è sì reale, ma è altrettanto instabile e mai definitiva, dal momento che è contraddetta giorno dopo giorno nel nostro vissuto quotidiano. E le ideologie non sono finite e non hanno tutte lo stesso segno. Accanto a quelle che sposano la causa del dominio di tipo tradizionale o verniciata a nuovo, ce ne sono altre che non sono rivolte al passato o alla sua conservazione, ma sono rivolte al futuro. Magari non hanno forme compiute, ma sicuramente abbozzi di motivazione, altre che si basano su un processo incessante di presa di coscienza delle stesse leggi di formazione della coscienza. La conquista di un tale obiettivo è frutto di una prassi sociale, di una lotta di classe e di genere per scrollarsi di dosso le incrostazioni accumulate in anni di complicità con l'ideologia e la pratica borghese e patriarcale. Il controllo cosciente del corpo, del proprio comportamento, è una possibilità tutta da conquistare. Coscienza di genere è avere consapevolezza dei complessi meccanismi delle leggi e dei processi di interiorizzazione delle ideologie ufficiali, vecchie e nuove. Significa capacità di progettazione consapevole del nostro futuro. Significa pratica sociale orientata alla realizzazione delle nostre aspirazioni e alla liberazione di noi tutte. La coscienza personale non si annulla nella coscienza sociale, ma in questa prende linfa e si arricchisce, si sviluppa e si consolida nel corso della rivoluzione sociale contro tutte le manifestazioni del dominio reale, del capitale e del patriarcato.